24 mattino. Eccoci qua alle 8:18 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. È il momento di parlare un po' di economia. Soldi e dintorni. Ed eccoci con Deborah Rosciani. So che eri disperata ieri mattina. Pensavi ad un abbandono. Non è molto totale. Carino nei confronti di Alessio tutto questo. No, ma che scherzi, ti ho lasciato. Lascia che ce le diciamo in privato queste cose. Ti ho lasciato cose. In ottime mani, come lo si so. Suol dire. Come mi lascerai la prossima settimana? Prossima settimana ti lascio proprio totalmente per una settimana. Comunque, insomma, detto questo, parliamo di educazione finanziaria. Esatto, possiamo dire con così. Te bisognerebbe fare un bel lavoro, veramente. Non so dove cominciare. Sulla finanziaria. Vabbè, quella la lasciamo a Tremonti, guarda che è già una bella rogna ogni anno. Allora, perché parliamo di questo argomento questa mattina? Ci siamo lanciati in una joint venture, chiamiamola così, in una collaborazione con il settimanale dedicato al risparmio, agli investimenti e ai temi economici di Panorama, Panorama Economy, perché da oggi esce con una guida intitolata La guida utile del risparmio, tutto quello che avresti voluto sapere sulla finanza ma non hai mai letto. Perché questo tema? Perché per i prodotti finanziari vale la stessa regola che esiste per l'acquisto di altri beni o servizi. Una buona informazione di base serve ad evitare, nei casi peggiori, clamorose fregature, ma almeno serve ad evitare di sottoscrivere investimenti non adeguati alle nostre esigenze. Allora, buongiorno al condirettore del settimanale Panorama Economy, Maurizio Tortorella. Maurizio, ben trovato a Soldi e Dintorni. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. Tra l'altro volevo anche ricordarlo che non è una voce nuova per Radio 24, perché gli è capitato, Maurizio, di condurre anche la nostra rassegna stampa. Allora, quello che vorrei ricordare innanzitutto è che questa guida muove i passi dal risultato di un sondaggio che è stato condotto dalla vostra rivista in aprile per verificare il livello di educazione finanziaria degli italiani. Cosa è emerso? È vero, Economy in aprile fece una copertina dedicata proprio alla competenza degli italiani in materia economica, e questo partiva da un disastroso sondaggio fatto da Patichiari, il consorzio delle banche italiane, che a livello europeo aveva valutato che la competenza degli italiani in materia economica era la più bassa in assoluto. E noi facemmo un sondaggio in quell'occasione, Economy fece un sondaggio fra 800 persone, 800 italiani, e uscirono risultati disastrosi del tipo che alla domanda calano i tassi di interesse, questo per il tuo mutuo, se hai un mutuo, è un bene o un male? E la risposta fu un bene, cioè giusta per il 51%, ma il 49% dice un male. Quindi insomma, è la metà. Azioni e obbligazioni, e da una parte titoli di Stato sono più rischiosi o meno rischiosi, uguale il 37% degli intervistati. Da quel tipo di risposte decidemmo che qualche cosa bisognava fare, e allora insieme ad Azimut, società di gestione del risparmio ma indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali, abbiamo pensato di mettere in piedi questa guida. Sì, infatti quello che volevo ricordare è che proprio la guida recepisce le indicazioni di questo libro che è stato pubblicato da Azimut, da Paolo Martini, che è responsabile della comunicazione, e da altre due professionalità appunto interne al gruppo. Il libro si chiama Io non ci casco più, i primi quattro passi per rialzarsi da questa crisi finanziaria. In copertina riporta proprio una banana, perché insomma il tema finanziario, Maurizio, è sempre particolarmente scivoloso. Partendo da questo libro, in libreria noi di temi di libri sull'educazione finanziaria ne troviamo tanti, così come non facciamo altro che leggere di sondaggi in cui riconfermiamo la nostra scarsa educazione finanziaria, ma sembra sempre di ripartire da zero. Perché? Guarda, gli italiani sono un popolo buffo, secondo me. Quando dobbiamo comprare un'automobile leggiamo decine di articoli di giornale, ci informiamo. Quando invece dobbiamo investire i nostri risparmi, ci sono tante cose da leggere sulle 24 ore Economy, ma evidentemente questo non basta mai. Io ho l'impressione che quello che manca in questo paese sia proprio l'educazione di base. In un'intervista che Economy ha fatto al ministro Gelmini, lei ha detto che è partita una sperimentazione in alcune scuole, ma il divario con altri paesi è clamoroso. In Gran Bretagna, per esempio, i bambini delle elementari a 8 anni, ai bambini viene insegnato come aprire un conto corrente. In Italia questo non avviene. E dare una minima strumentazione di base è quella che probabilmente avvicinerebbe di più l'italiano medio ha la competenza in materia economica, non credi? Certo, Maurizio, noi ovviamente possiamo orientarci meglio nel settore del risparmio e dell'investimento studiando di più, preparandoci di più, però molto spesso abbiamo anche il problema di non sapere individuare il consulente finanziario giusto per darci anche questo orientamento. Come possono difendersi i piccoli risparmiatori se anche gli esperti a volte del settore e gli analisti sbagliano? Il caso Lehman Brothers, il giudizio errato su Patti Chiari, insomma, è stato il caso più clamoroso negli ultimi tempi nel nostro paese. Indubbiamente, lì è difficile dare una risposta a questa domanda. Sicuramente è fare confronti, voglio dire, così come appunto tu leggi e ti informi accuratamente per acquistare una cosa che magari occupa soltanto una parte dei tuoi risparmi, l'automobile, così devi fare per i tuoi risparmi nel loro complesso, ancora di più trattandosi di masse monetarie superiori a quelle dell'acquisto di un'automobile. Mi pare che sia questo il consiglio. Volevo dire, se possibile, che la guida parte con questo numero, con il numero in edicola da oggi, ma va avanti per 4 numeri ed è un inserto estraibile al centro del settimanale. Benissimo, Maurizio, io ti ringrazio. Ricordo, da oggi in edicola con Panorama Economy, la guida utile del risparmio, tutto quello che avresti voluto sapere sulla finanza ma non hai mai letto. Maurizio, c'è però una domanda per te anche da Alessandro Milan, che non riguarda la finanza, sì? Però. No, io voglio solo fare una segnalazione, saluto intanto ovviamente Maurizio Tortorella. Sul sito di Economy, Blogonomy con la Y ovviamente finale all'inglese, giustamente, c'è la domanda, noi ne parleremo tra poco alle 8.30, la domanda, il sondaggio sulla vicenda dei medici di Brunetta, no? Sì. Noi ne parleremo subito dopo la pubblicità. Siete d'accordo sul fatto che Brunetta ha previsto i 5 anni di carcere, per il medico che fa un certificato medico falso? È un tema molto... Cosa penso io? Dici, d'accordo o contrario? Allora, no, questo è il sondaggio che abbiamo lanciato ieri, ovviamente subito dopo la notizia diffusa di questa decisione del ministro per decreto. Io personalmente, che pure apprezzo moltissimo quello che sta facendo Brunetta, trovo che la misura è eccessiva. Credo che limiti sindacali permettendolo e paese permettendolo, perché questo è un paese strano, l'ho già detto, il licenziamento o la sanzione seria di un dipendente pubblico, così come del medico che si approfitta di un certificato medico falso, sia più che sufficiente. Certo. L'arresto, cioè voglio dire, ci dovrebbe essere una gradualità nell'utilizzo degli strumenti giudiziari, non credi? No, certo, ma tra poco ne parleremo. Grazie Maurizio Tortorella. Alle 12 Deborah Lasciani, se ci arriva, perché se ce la posso fare stamattina, santo cielo, che sto morendo. Ancora di investimenti, come dire, sbagliati, non proprio corretti. Abbiamo scoperto che molti italiani hanno investito in obbligazioni General Motors e adesso chissà che cosa se ne faranno se la società finisce in bancarotta. Benissimo. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Non c'è solo la Fiat che tenta di acquistare Opel. Sono 3 le proposte fatte, le altre 2 dell'austro-canadese Magna e del fondo di private equity americano Ripplewood. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, l'amministratore delegato del Lingotto, Marchionne, ha detto ai suoi collaboratori che la Fiat ha oltre il 50% di possibilità di farcela. Il caso Mills, Berlusconi attacca il giudice Gandus che ha emesso la sentenza, è una militante della sinistra estrema, un nemico politico, insorge l'Associazione Nazionale Magistrati, parole inaccettabili. Vi ricordo che di questo tema ne parlerà dopo le 9 Giuliano Ferrara. È scontro politico sulle nomine Rai, Augusto Minzolini è il nuovo direttore del TG1, Mauro Mazza il direttore di Rai 1. E in polemica con queste nomine, i 3 consiglieri di amministrazione e di opposizione hanno abbandonato i lavori per segnare la distanza da proposte considerate irricevibili e decise all'esterno dell'azienda. Infine il calcio, ieri l'anticipo della penultima giornata di campionato, la Lazio ha battuto 1-0 la Regina, i calabresi con questo risultato retrocedono matematicamente in Serie B e la Coppa UEFA invece va agli ucraini dello Shakhtar Donetsk che in finale hanno battuto il Werder Brema 2-1. Era l'ultima notizia, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Allora, punire il falso malato e punire il medico compiacente. Questo sarebbe lo scopo, la ratio dietro il decreto di riforma della pubblica amministrazione fortemente voluto dal ministro Brunetta, varato qualche giorno fa. Il bastone e la carota, sapete che questa è la ricetta che predica il ministro. Un po' di bastone, un po' di carota. Il bastone sarebbe questo: fino a 5 anni di carcere e in alcuni casi anche la radiazione dall'albo per il medico che firma un certificato per malattia compiacente, falso, una multa fino a 1.600 euro, punizione anche per il dipendente pubblico, ovviamente, la multa anche a lui. Io vorrei salutare Giacomo Milillo, che è il segretario generale nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Milillo, buongiorno, dottore. Buongiorno. Che ne pensa? È un bastone un po' forte questa volta, ci è andato giù duro, Brunetta? È un bastone reso più pesante, ma comunque già esistente, perché la falsa certificazione è già un reato ed è già perseguito con il carcere dal codice penale, quindi non cambia la situazione. Non credo che questo potrà risolvere il problema. Perché però si parla di, insomma, mondo dei medici un po' in subbuglio, ho letto dichiarazioni molto molto dure, provvedimento inaccettabile, insomma, effettivamente già l'idea di truffa allo Stato già c'è, però insomma qui viene inasprita, ecco, fino a 5 anni di carcere, la possibilità di essere radiati per chi lavora in una struttura pubblica. Sì, perché il malcontento c'è, perché il problema viene affrontato colpevolizzando la sensazione che venga colpevolizzata tutta la categoria. In realtà quando il problema fondamentale è questo, che la falsa certificazione appunto è già un reato. Il problema sono quelle situazioni, l'assenteismo si fonda soprattutto su quelle situazioni in cui il medico in realtà non ha la possibilità di accertare con esattezza la malattia e quindi rischia di dover affrontare dei processi che poi magari lo assolveranno, anzi sicuramente lo assolveranno, però sono comunque processi o multe che danneggiano l'immagine e danneggiano la serenità del professionista. Il principio che io ho sentito da molti medici, dichiarazioni a dire: ma io, se mi arriva uno che mi dice ho un mal di testa, come faccio a capire se quel mal di testa è un mal di testa o è un mal di lavoro, tanto per dirla tutta? Cioè, questa è già l'opposizione che voi fate? Questa è l'opposizione fondamentale, nel senso che ci sono situazioni assolutamente frequenti in cui non è possibile rendere obiettivo una condizione di malattia o di incapacità al lavoro, di inabilità temporanea al lavoro, e quindi il medico non può fare altro che registrare quello che dice l'assistito. Questo vale in particolare per i medici di famiglia, che hanno un rapporto di fiducia e che non possono assolutamente trasformarsi da persone che si occupano della salute della persona che lo curano a persone che assumono un atteggiamento fiscale. Insomma, non siete i controllori, c'è, cioè, il rapporto di fiducia. Però senta questa storia, Milillo, stia con noi. Voglio salutare Marco Parma, che è preside dall'Istituto di Istruzione Superiore Italo Calvino a Rozzano. Rozzano è in provincia di Milano. Professor Parma, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei, insomma, la vicenda è di controversie, di litigi su col personale di servizio che lei ha ingaggiato per la questione delle pulizie, cioè c'è del personale di servizio che si rifiuta, credo, di fare delle pulizie dei vetri, delle pulizie della scuola, no? Sostanzialmente, per farla molto in breve, lei questa le ha messe alle strette, dice bisogna pulire i vetri, bisogna lavare, bisogna di qui, bisogna di là. Risultato, un certificato medico risultato unico. Risultato 5 certificati medici. Cioè tutti in malattia, i bidelli. No, se, non come... tutti, no, anzi ci tengo a dire che c'è gente che si è presentata regolarmente al lavoro e gente che ha dovuto anticipare il turno, e a questi va il mio ringraziamento per la collaborazione. E lei che può fare in quel caso? Cioè, lei si è visto un'epidemia di influenza? Cosa hanno detto? 3 giorni di lavoro, stanchezza, no? La diagnosi non deve essere comunicata al datore di lavoro, soltanto la prognosi. Per cui io non so e non devo sapere che patologie li hanno colpiti. E lei che pensa? Che pensa di questa proposta di Brunetta? Perché è una storia emblematica, insomma, la sua. Lei ha avuto un po' di diverbio sulle mansioni che devono svolgere alcuni dipendenti della scuola, e questi di colpo, molti di loro si sono messi in malattia o si sono ammalati, insomma, ecco, può capitare, Mi lasci dire che la nostra storia adesso è finita sui giornali e in TV perché c'è una coincidenza temporale con il decreto Brunetta. è storia quotidiana di tutte le scuole, storia quotidiana di tutte le scuole, di tantissime scuole, quindi non c'è nulla di particolare. L'uso del certificato medico come proseguimento della lotta sindacale con armi improprie, come strumento per allungare le ferie, è endemico nella pubblica amministrazione. Mm. E lei che può fare alle armi spuntate? Che fa? Può solo aspettare che ritorni? Io, no? Guardi, posso chiedere un controllo medico legale, per il quale peraltro non ho moltissimi fondi, perché le ASL poi vogliono essere pagate per questo lavoro. Posso, qualche volta l'ho fatto, ringraziare affettuosamente il medico curante per le cure così diligentemente prestate al nostro lavoratore. Questo sì, non le riportano molti dipendenti a pulire i vetri. Dottor Milillo, segretario Milillo, che si può, cioè il problema dei non so se dei medici compiacenti o delle persone che appunto sfruttano la situazione, il rapporto di fiducia, a dire: guardi dottore, ho mal di testa, devo stare 3 giorni a casa, insomma, che si può fare? Questo è un problema effettivamente che c'è. Che si può, lei dice, dalla parte nostra, nel rapporto di fiducia, non possiamo fare altro che accertare se uno mi viene a dire sto male, dottore. E dall'altra parte, però, che si può fare? Si può solo subire? No, io non credo che si debba solo subire, perché queste situazioni sono situazioni che possono essere affrontate nel momento in cui vengono evidenziate, ma devono essere evidenziate, possono essere viste dal datore di lavoro, non dal medico. Cioè, se questi usiamo questo come cioè esempio. Il preside che può fare quando, esatto, si trova a metà dei bidelli? Con le leggi attuali, con le leggi e il sistema attuale, può fare quello che ha detto, probabilmente. Voglio far notare che mentre il preside vede i 5 bidelli che stanno a casa, i singoli medici non vedono la situazione generale. Ora, se sanno che il bidello si mette in malattia perché non vuole andare a lavorare, fanno ugualmente la certificazione, questi giustamente devono essere puniti perché sono falsi certificati. Il problema però da risolvere è quello dell'assenteismo, e quindi va risolto per come appare, cioè nel momento in cui 5 bidelli stanno a casa con la copertura di un certificato che potrebbe essere formalmente corretto e che quindi non potrà mai neanche vedere la pena del medico, perché se anche il medico venisse processato e ha formulato una diagnosi che non è obiettivabile, il giudice non potrà mai dire niente, non potrà mai condannarlo. Però vorrei allora chiedere il problema è, per esempio, che per le brevi assenze, se invece di dare al cittadino la copertura di un certificato che comunque può essere storto, si desse l'autocertificazione. Oh, volevo arrivare a questo punto, dottore. Volevo arrivare a questo punto. A questo punto no, perché il cittadino sarebbe responsabile. La interrompo qui, perché abbiamo recuperato da Avvenire Medico, che credo sia la vostra rivista interna, no, della, esatto, federazione, un suo editoriale. Lei propone questa, una cosa per me dirompente. Pensiamo siano ormai maturi, lei scrive, i tempi per una proposta articolata che introduca l'autocertificazione dei primi 3 giorni di malattia, e la presenteremo a breve alle parti sociali. Cioè, che vuol dire? Che uno si autocertifica senza andare dal medico che sta male per fino a 3 giorni? Io credo che fino a 3 giorni, un giorno per volta, molti cittadini siano in grado di utilizzare responsabilmente la possibilità di stare a casa per malattia. Ma lei crede che responsabilmente siamo in grado di fare questo? Non sarebbe... Io credo di sì, perché a volte il certificato è storto, magari, o con il discorso del mal di testa o della diarrea, insomma, scusi i termini, ma che comunque sono difficilmente verificabili dal medico, anzi sono impossibili da verificare dal medico. Tanto vale autocertificarsi. Si sentono coperti e scaricano la responsabilità sul medico, mentre invece se lo dichiarano personalmente ne rispondono. Io credo che questo serva anche magari associato ad un meccanismo di incentivazione e di penalizzazione, non drammatico, perché secondo me quando le pene sono troppo sono troppo forti, poi sì, si riduce a esercitarle perché non sono proporzionate. Su questo sono d'accordo, però questo è interessante, l'autocertificazione, cioè fino a 3 giorni, autocertificarsi insomma una malattia breve, quella che ci fa stare fino a 3 giorni. Professor Parma, io devo chiudere, lei che fa? Quando rientrano questi bidelli? Da certificato almeno. Ma da certificato dovrebbero rientrare settimana prossima. E che fa? Gli dice che bisogna pulire i vetri, insomma. Come? Mi dirò che devono fare i lavori che sono di competenza del loro profilo. Teme altri certificati in arrivo, no? Sicuramente sì. Beh, insomma, il suo alzare le braccia di fronte a questo problema, dire che si può fare, così, insomma, può solo ringraziare i medici che li curino bene, come ci ha detto, tecnicamente. No? Ma poi posso denunciare pubblicamente, come lavoratore e come cittadino, questo malcostume. Questo... Non è possibile che nella pubblica amministrazione ci siano picchi di malattia sconosciuti nel mondo del lavoro privato, non è possibile che nella pubblica amministrazione tutte le gravidanze siano a rischio. Va bene, io qui la fermo e la ringrazio. Marco Parma, preside all'Istituto Superiore Italo Calvino di Rozzano, così come Giacomo Milillo, segretario della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Staremo a vedere quanta strada farà e con quali polemiche questo provvedimento. Allora, in Gran Bretagna c'è un giornale, il Daily Telegraph, che da giorni è entrato in possesso dei rimborsi chiesti dai parlamentari, i rimborsi gonfiati e che vengono spiattellati quotidianamente con le facce dei parlamentari in prima pagina. Anche oggi sono andato poco fa sul sito, però io sorrido un po', sorrido perché, non so, Sir Peter Vigors, parlamentare, è stato inchiodato perché ha chiesto un rimborso, udite bene, di 1645 sterline perché si è fatto rimborsare dai contribuenti una anatra galleggiante che si è messa nel giardino di casa. Per 1645 sterline Sir Peter Vigors ha annunciato che rinuncerà a ricandidarsi. Io voglio salutare Wilder Bordon. Buongiorno Bordon. Buongiorno a voi. Ex ministro, ex senatore, ha scritto un libro, Perché sono uscito dalla casta, edito da Ponte alle Grazie. Senta, ma cosa c'è da sorridere? Guardate che dopo 400 anni lo speaker della Camera in Gran Bretagna si è dimesso. L'ultimo caso risaliva al 1695, si è dimesso per questo scandalo. In 30 secondi è andato in TV, ha detto: la Camera non ha bisogno di questi scandali, mi dimetto. 1695 euro, sterline per una anatra galleggiante. Chi si è fatto rimborsare 6.000 sterline per lavori di giardinaggio? L'inglese, il giardinaggio. So. Bordon, in Italia che dovremmo fare, insomma? Ma guardi, a me viene da dire quanto è vicina la Gran Bretagna e quanto è lontana. Davvero, perché... È vicina perché evidentemente, come dire, non c'è soltanto in Italia certi brutti vizi, ed è lontana perché, come lei giustamente ricordava, io mi domando, no, come sarebbe stato possibile una cosa come quella di cui parlava poc'anzi, cioè un signore che è preso con le mani nel sacco per tutto sommato una cosa grave, a mio avviso grave, perché, come dire, quando si fa una piccola grande truffa, un imbroglio, è una cosa grave. Perché certo. Un titolo e una rappresentanza pubblica, però si dimette immediatamente. Beh, se pensiamo all'Italia, risulta letteralmente incredibile. C'è anche il caso di Natasha Engel, si è fatta un sofà da 2.000 sterline, è stata beccata, anche lei ha detto, è vero, non mi candiderò più perché la mia credibilità, insomma, di fronte agli elettori è crollata per 2.000 sterline, per un sofà da 2.000 sterline. Ma leggevo ieri che in Italia si parla all'anno di 96 milioni di euro dati, 72 ai parlamentari, 24 al Senato, di rimborsi. Da noi funziona come? Non c'è il piedilista, no? Ma funziona che viene dato nello stipendio, insomma, base, no? Sì, non nello stipendio. Io l'ho detto con molto dettaglio proprio nel mio libro. Io vorrei ricordare che, come dire, sono anche questi alcuni dei motivi che a un certo punto mi hanno portato a dire basta, che nel mio libro si racconta di un fatto, questo sì, abbastanza singolare, cioè del fatto che io ho deciso, e non per dei rimborsi avuti, come dire, truffaldinamente, ma perché avevo capito che eravamo arrivati ad un punto non più sopportabile, di dare le dimissioni. E si racconta come la cosiddetta indennità del parlamentare sia composta da tre voci. Una voce è l'indennità vera e propria, sono in circa poco meno di 6.000 euro. Poi c'è un rimborso per gli assistenti parlamentari di 4.700, almeno era di 4.700 euro. Peccato che non ci sia nessuna verifica reale che poi questi soldi non vengano letteralmente intascati fra l'altro in tasse, ma servano per pagare qualcuno. Certo. E che non ci sia nemmeno nessuna verifica che il pagamento poi avvenga in nero. A proposito di... se adesso si vuole mettere a posto... Stati gravissimi. Terzo elemento, c'è poi un rimborso dato per il soggiorno romano, anche qua totalmente, come dire, non controllato. E questo quanto è? Questo è di più o meno altri 4.500 euro. Sempre mensili, stiamo parlando mensili. Cioè. Mensili, sì, altro che i 1.600 sterline. Siamo circa 9.000 euro non dati, diciamo, per giuste ragioni, se venissero utilizzati, perché io nel libro stesso racconto, anche per non, come dire, non mi piace lo scandalismo fine a se stesso, quindi metto i puntini sulle i, è chiaro che se uno fa il parlamentare sul serio, viene a Roma 12-14 notti al mese, come dire, mangia, dorme, usa i mezzi pubblici, fa oppure i tassi e via discorrendo, e poi paga una o due persone con i contributi, è chiaro che questi soldi bastano a malapena. Se uno invece li intasca, esentasse, beh, è tutt'altra cosa, no? No, questo sì. Tra l'altro non si capisce perché questi rimborsi, per esempio, il soggiorno debbano andare anche chi ha casa e residenza a Roma, altra cosa. Ah, questo sì, certo, per la residenza a Roma anche per chi vive a Roma. Inspiegabile. Che possiamo dire? In Gran Bretagna continua, insomma, questo scandalo. Ripeto, lo speaker della Camera è costituzionalmente la terza carica più importante, cioè dopo la regina e dopo il primo ministro. Ripeto, ha fatto un comunicato di 30 secondi secco in TV, ha detto io mi devo dimettere. Diciamo intanto che se la cosa dovesse, come dire, dovesse in qualche modo essere ripetuta in Italia, noi ci troveremo con le camere mezze vuote. Sì, questo sì. Già a volte oggi leggevo su Repubblica che sono mezze vuote perché stanno, c'è la campagna elettorale, ci sono tutti in missione. Questo scrive oggi Carmelo Lopappa su Repubblica. Un altro è vero, nella puntata prossima del prossimo libro racconterò questa storia delle missioni, altra cosa a mio avviso al limite dell'incredibile, perché è ovvio che cos'è la missione? È la certificazione da parte della Camera che un parlamentare sia in quel momento occupato fuori dal Parlamento, potrebbe essere anche in altro posto a Roma, in commissione, qualche altra parte, ma soprattutto anche fuori Roma per attività connesse con, non con il suo ruolo di parlamentare, sia ben chiaro, ma esattamente per funzioni connesse con la rappresentanza dell'istituzione. Sì, che ne so, un ministro, per esempio. Le posso dire con assoluta certezza che il 90-95% di queste missioni sono assolutamente false. Allora, su questo 90-95%, visto che scriverà un libro, noi siamo qua, senatore Bordon, ex senatore Bordon, scriva un libro. Io ricordo in chiusura che alle 10.30, è importante, oggi c'è l'assemblea di Confindustria, alle 10.30 seguiremo la relazione in diretta del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, qui dai microfoni di Radio 24. E con questo io finisco, Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione e Carmelo Lauricella in regia. 24 Mattino e Radio24.it, a domani.